bene così, anche se mi manca l'aria. E questo cesso di mondo uccide i sogni che ho con ogni cosa che può, con tutto il fiato che ho. Correvo, correvo, va bene. Cadere di nuovo dal punto più alto e non sentire più niente a tutire lo schianto coi giorni di sole che ho raccolto bene. Li porto sempre, li ho sempre portati con me. Ma almeno, almeno tu resti sempre, almeno tu. E quando questa vita sembra meno infame, mi accorgo che sorridi dentro la mia voce. Io ti porto sempre, ti ho sempre portata con me. Oggi piove di brutto, piove, piove, piove ai bordi dell'anima. E io che prendo da solo l'ennesimo sogno che non si è avverato, ma non mi sono fermato. Correvo, correvo, va bene. Cadere di nuovo dal punto più alto e non sentire più niente a tutire lo schianto coi giorni di sole che ho raccolto bene. Li porto sempre, li ho sempre portati con me. Ma almeno, almeno tu resti sempre. Quando questa vita sembra meno infame, mi accorgo che sorridi dentro la mia voce. Io ti porto sempre, ti ho sempre portata con me. Sono giorni di noi, di occhi spaccati, di alcuni rimpianti, eppure certe canzoni che nonostante la fine continui a cantare. La la la la la la, la la la la la la. Resti sempre, almeno tu. E quando questa vita sembra meno infame, è perché sei rimasta dentro la mia voce. Io ti porto sempre, ti ho sempre portata con me. Almeno, almeno tu. Almeno, almeno io. Correvo, correvo.